Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Un saluto da Maurizio Melis e benvenuti a Mr. Kilowatt. La luce naturale è indiscutibilmente la più piacevole. In effetti siamo noi abitanti di questo pianeta e con noi i nostri organi della vista ad esserci evoluti sotto la luce del nostro sole. Non potremo perciò che ricercare in ogni fonte di luce artificiale le stesse caratteristiche della luce solare, lo stesso spettro, come si dice in gergo. Insomma, questa preferenza congenita è di per sé un'ottima ragione per fare ricorso a dei semplici apparati, i tubi o condotti di luce, che oltretutto consentono un certo risparmio energetico. Parliamo di una sorta di evoluzione dei vecchi lucernari. Ne parliamo con Paolo Zazzini, docente di fisica tecnica presso la Facoltà di Architettura dell'Università degli Studi di Pescara. Buonasera Zazzini. Buonasera. Allora, che cosa sono e a cosa servono i tubi di luce? Sì, allora, sono dei sistemi di trasporto a distanza della luce naturale che consentono quindi di portare la luce naturale dove naturalmente non c'è, cioè in locali interrati, seminterrati o privi di finestre di affacci verso l'esterno, o per esempio in locali di grosse dimensioni che presentano finestre soltanto sulle pareti perimetrali e che quindi hanno poi delle grosse zone centrali poco illuminate. Come sono fatti fisicamente? Ci sono più tipologie? Sì, allora, ci sono due grosse categorie di tubi di luce. Sono fatti essenzialmente di tre componenti: una sezione di captazione, una sezione di trasporto, che è il tubo vero e proprio, e una sezione di diffusione della luce nell'ambiente poi che deve essere illuminato. La distinzione è essenzialmente nella prima parte, cioè nel captatore, che può essere fisso o mobile. Con questo secondo termine si intende un captatore che è dotato poi di un sistema automatizzato di inseguimento della posizione del sole sulla volta celeste, che quindi è un sistema abbastanza complesso, direi, mentre i sistemi più semplici sono quelli dotati di captatore fisso, che è semplicemente una cupoletta trasparente, di solito in policarbonato trasparente, che è in grado di captare le radiazioni solari, sia quelle provenienti direttamente dal sole che dall'intera volta celeste. Quindi sono delle cupolette che spuntano, mi passi il termine, dal tetto piuttosto che dal terrazzo. Sì, solitamente dalla parte alta dell'edificio, cioè dai tetti o dalle terrazze, talvolta anche dalle pareti perimetrali, quando comunque ci sia un'esposizione alla volta celeste libera da ostruzioni dovute alla presenza di altri edifici o parti dell'edificio stesso, che potrebbero creare delle ombreggiature che diminuirebbero l'efficienza del sistema. Certo, e quindi c'è poi questo tubo che trasporta la luce e nella stanza o nell'ambiente nel quale poi questa luce viene immessa si ha un oggetto che è simile a un lampadario, una plafoniera. Esattamente, esattamente. Il tubo è la parte più tecnologicamente avanzata perché di solito è rivestita di un materiale ad elevatissima riflettività nel visibile, che quindi è in grado di trasportare queste radiazioni senza grosse dispersioni di energia fino al diffusore, che come lei ha ben detto è una sorta di plafoniera molto simile a quella che si vede nei comuni corpi illuminanti artificiali, direi. D'accordo. In quali circostanze, che tipo di edifici, in che momento, se è il caso di aspettare una ristrutturazione o meno, bisogna pensare ad applicare questi sistemi? Ma guardi, non ci sono particolari controindicazioni all'applicazione di questi sistemi, tenendo presente che sono sistemi anche poco invasivi, nel senso che le dimensioni sono tali da poter essere applicate sia in piccoli edifici che in edifici più grandi, variando ovviamente il diametro del captatore, quindi certo, del tubo. Andiamo da diametri più piccoli che sono intorno ai 25 centimetri fino anche a un metro nelle dimensioni più grandi. Non ci sono, dicevo, particolari controindicazioni, nel senso che poi l'applicazione di questo sistema prevede semplicemente la foratura del solaio, se è già esistente, per una dimensione corrispondente al diametro, e poi la seconda fase consiste nell'infilare proprio materialmente il tubo, che di solito è fatto da una lamina rivestita di questo materiale riflettente, che può essere piegata ad hoc a mo' di tubo, tenendo presente che ad ogni curva, ad ogni gomito c'è una leggera perdita di efficienza, ovviamente. Insomma, siamo in presenza di una tecnologia che comunque è adatta all'abitazione, ma è molto adatta per esempio ai supermercati, a queste strutture in cui la luce artificiale viene mantenuta accesa tutto il giorno, anche quando la luce ambientale è largamente presente. Quali sono i vantaggi da un punto di vista economico, più o meno quanto si risparmia, in quanto tempo si rientra? Capisco che sia molto difficile, ecco, dare dei numeri, perché siamo di fronte a una situazione in cui i parametri in gioco sono moltissimi, però proviamoci. Allora, io le dico semplicemente che conviene di volta in volta rivolgersi ad un esperto per fare delle valutazioni del caso che si sta trattando. Diciamo che possiamo oscillare tra il 25 e il 50%. Per quello che riguarda i nostri studi, le posso dire che per esempio in un caso che abbiamo trattato ultimamente di un edificio commerciale di grosse dimensioni, con un impianto che prevedeva un centinaio di tubi di luce del diametro di 60 centimetri, ecco, abbiamo previsto un risparmio nei costi di esercizio dell'impianto che ci permetteva di ammortizzare il costo dell'intero impianto in circa una decina di anni. Grazie a Paolo Zazzini. Mister Kilowatt torna domani con una puntata che guarda un po' al futuro. Parleremo infatti di cogenerazione a idrogeno. Ricordo a chi fatica a seguirci che potete ascoltare le puntate di Mister Kilowatt scaricandole dal sito di Radio 24. Mentre per parlare con noi c'è l'email mrkilowatt@radio24.it. Buona serata.